Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto di Anima Jazz numero 659, una puntata veramente molto interessante con tantissime novità discografiche sia dall'Italia che dall'estero, ma soprattutto dall'Italia con delle bellissime pubblicazioni discografiche. Iniziamo subito con Trio Grande che è formato da Massimo Colombo, conosciutissimo pianista jazz italiano che io ho avuto il piacere di promuovere molte volte nei miei programmi, sia con suoi progetti da leader sia all'interno delle formazioni più prestigiose del jazz italiano. Massimo Colombo al pianoforte, si presenta con il grande Peter Erskine alla batteria e percussioni e a Darek Oleskiewicz al contrabbasso. Le composizioni di questo progetto discografico che si intitola appunto Trio Grande sono tutte di Massimo Colombo e stasera ho scelto per voi Ba and Bo. Buon ascolto quindi con Trio Grande capeggiato dal pianista Massimo Colombo. Thank you. Questo era Trio Grande dall'omonimo CD, formato da Massimo Colombo al pianoforte, Peter Erskine alla batteria e percussioni e Darek Oleskiewicz al contrabbasso. La composizione che ci siamo ascoltati era una composizione originale di Massimo Colombo, intitolata Ba and Bo, una composizione che mette in evidenza la grande preparazione tecnica di questo pianista, ma anche la sua fervida creatività. I fraseggi sono sempre molto fantasiosi e gradevolissimo il suo pianismo. Un CD ricco di varietà, nel senso che ci sono anche pezzi slow, molto romantici, molto dolci, molto morbidi, nei quali Massimo Colombo si esprime al pari della vivacità nella quale si esprime con i pezzi più veloci. Quindi riesce a interpretare sia pezzi più morbidi e più calmi, con grande poesia, con grande sensibilità, e nello stesso tempo riesce a dare anche il giusto impulso di energia ai pezzi, ai fast, ai pezzi più veloci. Un bel CD pubblicato da Crocevia di Suoni Records. Ricordo che il trio e il titolo del CD è Trio Grande. Adesso andiamo avanti con Dario Faiella. Dario Faiella che si presenta con un bel CD pubblicato dalla Ebit Skyline, intitolato Recurring Dreams, e l'ha fatto insieme a un'orchestra molto conosciuta e prestigiosa in ambito jazz e non solo, che è la Monday Orchestra. Il CD è poi ricco di special guest di primissimo rilievo: Emanuele Cisi, Mauro Negri, Michael Rosen, Giulio Visibelli, Tullio Ricci, Emilio Soana, Marco Brioschi, Alberto Bonacasa, Sandro Massazza, Max Furian. Sono tutti professionisti di grande prestigio, non solo nazionale, anche internazionale, che fanno il loro lavoro di guest star al massimo del le loro prestazioni, e quindi impreziosiscono questo progetto discografico che ricordo intitolato Recurring Dreams, con un risultato straordinario. Dario Faiella, oltre che essere un ottimo chitarrista, è anche un validissimo compositore, e stasera noi potremo ascoltare proprio una sua composizione originale intitolata Cyber Blues con lo special guest, il grande sassofonista Emanuele Cisi. Buon ascolto quindi con Dario Faiella, con la Mandy Orchestra, con lo special guest Emanuele Cisi, dal CD Recurring Dreams, pubblicato da Ebit. Thank you. Molto bene Dario Faiella, ma straordinario anche il solista del grande Emanuele Cisi. Sicuramente un progetto discografico veramente ben concepito, con questi performer che sono straordinari, che sono tra i più interessanti a livello nazionale, quindi che impreziosiscono moltissimo questo progetto intitolato Recurring Dreams, che vede Dario Faiella alla chitarra, accompagnato dalla Mandi Orchestra, un'orchestra di grande esperienza con ottimi professionisti, e appunto la preziosità in ogni pezzo della diversità, tra l'altro espressa anche dagli strumenti che vengono suonati da questi vari musicisti e nei loro linguaggi, nei loro stili, quindi questi performers che si alternano come guest stars insieme a Dario Faiella. Una composizione originale, quella che noi ci siamo ascoltati, intitolata Cyber Blues, e ricordo tratto dal CD Recurring Dreams pubblicato da Ebit Skyline. E adesso, a proposito di ottimi musicisti italiani, un gradito ritorno ad Anima Jazz, l'ottimo sassofonista Gianluca Lusi, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare più volte con suoi progetti discografici, con obiettivi diversificati e sempre risultati molto interessanti. Adesso esce per la Toschi Records questo bellissimo progetto molto impegnativo intitolato Never Fall Behind the Shins, un progetto discografico che vede il nostro sassofonista Gianluca Lusi al sax e al clarinetto basso, insieme a altri protagonisti del jazz italiano quali Andrea Rea al pianoforte, che abbiamo avuto il piacere più volte di promuovere attraverso suoi progetti personali, e poi Ruben Rogers al contrabbasso e Gregory Hutchinson alla batteria. Veramente un ottimo quartetto, lo sentirete, che si esprime veramente con proprietà di linguaggio, con grande sensibilità. Stasera io ho scelto per voi una composizione originale di Gianluca Lusi intitolata I Remember Three Things. Buon ascolto quindi con il quartetto capeggiato da Gianluca Lusi dal CD Never Fall Behind the Shins. I Remember Three Things, una composizione originale di Gianluca Lusi, questo ottimo sassofonista che cresce in modo esponenziale. Ogni volta io rimango sempre ammirato dai suoi passi in avanti. Passi in avanti relativi intanto alla sensibilità, oltre che alla tecnica. Beh, sicuramente in un pezzo come questo è facile riconoscere le performance virtuosistiche e applaudire e dire bravo, ma Gianluca Lusi non è il musicista che si accontenta di fare la bella prestazione tecnica per strappare l'applauso con un bel virtuosismo. È un musicista di grande sensibilità, e la sensibilità sa superare l'esibizionismo della performance di grande effetto, sa andare veramente oltre, e quindi Gianluca Lusi pretende di più, e in questo pezzo ci sono pezzi pezzi veramente, momenti veramente toccanti, così come in tutto l'album, un album veramente di grande rilievo, nel quale c'è spazio per tutto, c'è spazio per il momento riflessivo, c'è spazio per il momento della grande performance solistica di grande effetto, ma mai fine a se stessa, sempre in relazione a esigenze estetiche, a esigenze espressive, sicuramente un contatto, una centratura su se stesso dimostra Gianluca Lusi in questo CD, che fa di questo progetto un progetto al quale dedicare la massima attenzione. Ricordo la formazione: Gianluca Lusi ai sax e al clarinetto basso, Andrea Rea al pianoforte, Robin Rogers al contrabbasso, Gregory Hutchinson alla batteria. Never Fall Behind the Shins, questo è il titolo del CD pubblicato dalla Toschi Records. Adesso facciamo un salto all'estero, dopo tutto questo buon jazz italiano, e andiamo ad ascoltare quello che viene un po' considerato il maestro per eccellenza del pianoforte, Keith Jarrett, che devo dire, io mi esprimo in libertà, insomma, non ho da rendere conto a nessuno, quindi devo dire che non mi emoziona più come un tempo. Io sto ascoltando gli ultimi progetti di questo grande, straordinario, mitico pianista, ma non sto più provando le emozioni dei grandi tempi. E anche in questa occasione, in quest'ultimo progetto intitolato Creation, che è una raccolta di live realizzati a Tokyo, Toronto, Parigi e Roma, non sono riuscito ad emozionarmi così tanto. Sto trovando in Keith Jarrett un calo piuttosto notevole per quello che riguarda le tensioni, la poesia, l'espressività, il coinvolgimento emotivo nelle sue performance, e quindi così ho vissuto quest'ultimo progetto sempre all'insegna di questa remissione. Insomma, manca secondo me la grande ispirazione coinvolgente, manca l'emozione che riesce a far venire i brividi sulla pelle, così come mi sono venuti per anni ascoltando questo grande pianista. Stasera di Keith Jarrett ascolteremo una sua composizione, una sua improvvisazione, per meglio dire, che è stata registrata durante un concerto a Roma e è intitolata Part 4. Buon ascolto quindi con Keith Jarrett dal CD Creation pubblicato dalla ECM, attraverso questa registrazione fatta all'Auditorium del Parco della Musica in Roma nel 2014. Thank you. Bene, questo era Keith Jarrett. Keith Jarrett dal suo ultimo progetto pubblicato dalla ECM intitolato Creation, che vede una raccolta di live curata direttamente da Keith Jarrett, selezionata direttamente da Keith Jarrett durante i concerti a Tokyo, Toronto, Parigi e Roma. Il pezzo che ci siamo ascoltati stasera era intitolato Part 4, stato registrato nel luglio del 2014 a Roma all'Auditorium di Parco della Musica. Beh, questo, come vi dicevo, è un pezzo che sinceramente, pur essendo il pezzo che mi è piaciuto maggiormente di questo disco, è un pezzo che mi sembra un po' lontano dai grandi fasti di questo straordinario artista. Io non riesco più a riconoscere in questi pezzi, e ripeto, questo è quello che mi è piaciuto di più, non riconosco più le grandi intuizioni, non riconosco più i grandi voli, le particolari creative di questo straordinario artista, le particolarità improvvisative. Molto probabilmente è un problema mio, io ascolto con il cuore oltre che con l'esperienza quarantennale, però ascolto soprattutto con il cuore e sono sempre aperto alle emozioni, sono sempre, come si suol dire, con le antenne ritte per carpire ogni nota capace di farmi vibrare. Ecco, nell'ascolto di questo disco le mie antenne non hanno rilevato niente di rilevante. E comunque sicuramente è un progetto di sempre di grande capacità tecnica, di grande poesia, di grande sensibilità. Evidentemente siamo su due onde diverse e quindi io non riesco più a emozionarmi, ma si tratta soltanto molto probabilmente di un problema mio personale in relazione alle nuove performance di Keith Jarrett, che rimane comunque uno dei più grandi miti del jazz internazionale, per cui possiamo soltanto rispettare questa grande figura. C'è da dire che a volte mi arrivano dei progetti discografici di maestri che sono stati grandi in passato e che nel presente veramente non sono più all'altezza della situazione, non sono più all'altezza del loro nome. E a volte, anzi molto spesso, se non sempre, mi viene da dire: ma se io e altri non sapessimo che questo è Tizio o Caio, cioè il grande maestro, e ci dicessero: senti un po', guarda un po' questo ragazzo che è sconosciuto, però mi ha portato questa registrazione, senti un po' cosa ne pensi, direi: mamma mia, lascialo perdere, perché guarda, non c'è niente in questo progetto. Insomma, ecco, veramente in alcuni casi mi è venuto da dire questo, e dire: ecco, chissà quanti giovani pianisti, giovani o meno giovani, insomma, di grande talento, con grandi intuizioni, con grandi idee, con interessanti progetti, vengono rifiutati da case discografiche più o meno conosciute, anche magari quelle meno conosciute, non gli viene data importanza, poi magari ascoltano progetti fatti da grandi nomi, ma veramente ormai di scarsissimo spessore, magari anche proprio noiosi e sicuramente non così vincenti come progetti, diranno: ma guarda, lui solo perché è Tizio viene ancora osannato, viene applaudito al massimo. E io magari ho fatto un progetto che sinceramente è molto più interessante di questo, non viene nemmeno considerato, viene buttato nel cestino. Ecco, a volte io me lo faccio questa domanda e questo discorso, questa riflessione, e soffro per tutti quegli artisti che proprio perché ancora non hanno raggiunto il cosiddetto nome, magari si vedono chiudere le porte a progetti veramente interessanti, meritevoli. Chiudo questo discorso, vi ho annoiato abbastanza e adesso andiamo avanti con un altro artista che ci viene dagli Stati Uniti, Dawan Muhammad, che ha realizzato un progetto intitolato Consider the Source, un progetto nel quale Dawan Muhammad si mette alla prova nell'interpretazione molto personale di composizioni scritte da nomi più o meno noti. Ci sono composizioni di Thelonious Monk, ma ci sono anche composizioni di autori come dire secondari, che però Dawan Muhammad interpreta come se fossero pezzi suoi originali, quindi con un taglio interpretativo veramente molto originale. Chase, scritta da Kevin Tony, è il pezzo che ho scelto io stasera per farvi ascoltare questo clarinettista che si chiama appunto Dawan Muhammad dal suo progetto Consider the Source. Buon ascolto. Bene, questa era la musica di Dawan Muhammad, questo clarinettista sassofonista molto interessante che ha saputo interpretare con originalità questa composizione di Kevin Toney intitolata Chase. un'esecuzione molto stimolante, con una bella ritmica, vivace, con fraseggi creativi che hanno reso gradevole l'ascolto. Il trio è formato da Dawan Muhammad al sax tenore, in questo caso Kevin Tony al pianoforte, che è appunto anche l'autore di questo pezzo, e James Leary al contrabbasso. Il CD è intitolato Consider the Source. E adesso passiamo ad un ottimo musicista italiano, ritorniamo un po' al jazz italiano e ci ritorniamo con Yuri Daldan. Yuri Daldan and Clara Rivieri Octet. Questa è la formazione che ha appena pubblicato un bel progetto intitolato In the Still of the Night, un progetto che vede anche delle interessanti composizioni originali di Yuri Daldan e poi delle belle interpretazioni, anche in questo caso interpretazioni sempre con una certa originalità che rendono sempre stimolante e gradevole l'ascolto. Io però ho pensato, visto che tra l'altro è proprio uno dei pezzi che mi piace maggiormente di questo progetto discografico, ho pensato di farvi ascoltare una composizione originale di Yuri Daldan intitolata Alentejo, e il gruppo che ve lo farà ascoltare è formato dallo stesso leader del gruppo, Yuri Daldan al pianoforte, Clara Rivieri alla voce, Paolo Mazzoleni al contrabbasso, Alessandro Manzutti alla batteria, Olga Zaccarova al violino, Marco Toso al violino, Margherita Cossio alla viola, Andrea Musto al violoncello, Nicola Manzutti al primo violino. Buon ascolto quindi con Yuri Daldan e Clara Rivieri Octet. So happy to go, scaring my life. But tonight, the sadness for me is not just so true. The night is now so sad and blue, wandering with my head in a beside and clouds, a rainy perfume's coming from the ground in Portugal. Stars over my head, so far bright and free, lighting my life. Cause tonight the sadness for me is not just so true. The night is now so sad and blue, wandering with my head beside and clouds, a ready perfume's coming from the ground in Portugal. My journey in Portugal. Thank you. so far bright and free, lighting my life. 'Cause tonight the sadness for me is not just so true. The night is not so sad and blue. And clouds and ready perfumes coming from the ground in Portugal. My journey in Portugal. Bene, questa era la musica di Yuri Daldan, il CD è a nome di Yuri Daldan e Clara Rivieri, Octet in the Still of the Night, e noi ci siamo ascoltati una composizione originale di Yuri Daldan intitolata Alentejo, un pezzo, come avete sentito, ricco di armonia, una melodia veramente molto coinvolgente, una bellissima prestazione vocale di Clara Rivieri che le ha valso la selezione con questo progetto discografico per il prossimo Dubi Dubi Du 2015, il festival, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane. Quindi ad ottobre ripartirà il festival delle voci jazz italiane con la presenza anche di Clara Rivieri all'interno di questo ottetto capeggiato da Yuri Daldan. E adesso siamo arrivati alla fine della trasmissione, concludiamo la nostra serata con il Parker Abbott Trio che si presenta per la prima volta nei nostri programmi con il CD Wayfinders, The Wayfinders, dal quale noi potremo ascoltare una loro composizione intitolata Be Gone Blue. Buon ascolto con Parker Abbott Trio. Thank you. questo era il Parker Abbott Trio, formato da Terry Parker, Simon Abbott e Mark Seeger. Terry Parker e Simon Abbott sono due pianisti, uno in questo caso alle tastiere, uno al pianoforte, e Mark Seeger alla batteria. Un pezzo ricco di energia con delle belle intuizioni. Il pezzo che ci siamo ascoltati era una loro composizione originale intitolata Big Gone Blue, tratto dal CD The Wayfinders. Parker Abbott Trio che conclude questa nostra puntata, la 659. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.